America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York. Mario Platero. L'uragano Sandy, lo ricorderete, ne abbiamo parlato a lungo quando siamo stati travolti qui a New York, non soltanto dal vento ma dall'acqua alta. Ebbene, cosa ha combinato Sandy? Fra i vari danni c'è stata la quasi distruzione o comunque la paralisi del Luna Park di Coney Island. Paralisi perché? Perché in realtà le strutture hanno resistito, perché sono molto solide, possono sostenere i tifoni più violenti, ma l'acqua alta ha allagato gli impianti, ha allagato gli impianti elettrici, e dunque questo Luna Park, che ha avuto un grande successo, si è bloccato. Can't help but think of the beach, the historic boardwalk and the famed amusements and rides. Ecco, proprio l'altro giorno è stato il sindaco Bloomberg che ha riinaugurato, riaperto, tra l'altro era stato l'artefice, il creatore di questo progetto di Coney Island. Coney Island, ve lo ricordo, è un quartiere a Brooklyn dove appunto c'è il parco del divertimento, ci sono le giostre e ci sono delle grandi passeggiate lungo la spiaggia e lungo l'oceano. Ma perché vi sto raccontando questa storia? Perché lo sviluppo di Coney Island era stato affidato a un'azienda italiana, la Zamperla. Cosa è successo? Che questa azienda italiana, questa Zamperla, si è aggiudicata il mandato per costruire, per trasformare quest'area disastrata, appunto nel 2008. In un anno l'ha finito, nel 2009 le cose sono andate molto bene, fino a quando non c'è stato Sandy. E dopo Sandy, che ha colpito il 31 di ottobre, anche Coney Island è rimasto bloccato fino adesso, perché di nuovo Zamperla è rientrata in campo e ha rimesso a posto nel giro di pochi mesi il parco giochi. Io con me qui ai microfoni di America 24, Alberto Zamperla, che è l'amministratore delegato di questa azienda che di divertimenti campa. Buongiorno, come Buongiorno. Sta Zamperla? Molto bene, grazie. Ci racconti un po' cos'è il vostro mestiere, perché voi siete attivi in tutto il mondo. Lei mi raccontava che adesso è a New York, ma arrivava dalla Cina, siete stati nella Corea del Nord. Ecco, tutti hanno bisogno di divertirsi. Siete il monopolista? No, non siamo i monopolisti, però abbiamo una capacità di riuscire a creare dei parchi di divertimenti completi. E da bravi italiani, quando andiamo in una nazione, ci mettiamo a fianco dei nostri partner, cerchiamo di capire come si vive, quali sono le loro esigenze e quindi di fornire il meglio. Siamo capaci di costruire parchi, come lei ha accennato, in Corea del Nord. Ne stiamo costruendo uno a Baghdad. Avete già costruito a Baghdad? Abbiamo già fornito le attrazioni e i nostri tecnici stanno installando adesso a Baghdad. Ma scusa, è stato pericoloso lavorare a Baghdad, a fare un Luna Park a Baghdad? Beh, certo, dai racconti che ho avuto dei miei tecnici, quando venivano scortati all'interno con dei gipponi, con dei vetri spessi 5 mm e gli autisti con i mitragliatori al fianco, certo che non era molto C'era un simpatico. Piccolo frissange, diciamo. Assolutamente, sì. Ecco, scusi, ma e la Corea del Nord? Come si vince un contratto in Corea del Nord? Siamo tra le migliori aziende al mondo, quindi se uno vuole un servizio completo viene da Zamperla. E chi ha costruito? Lei ha portato tecnici, avete fatto tutto voi? Noi l'abbiamo disegnato e quindi poi abbiamo montato il parco. I lavori delle infrastrutture l'hanno fatto i militari nordcoreani. Il giorno dell'apertura del parco questi reparti militari sono entrati in formazione, probabilmente l'avete visto in televisione come marciano, molto marziali, eccetera. Quando gli ufficiali hanno dato il rompete alle righe, anche questi qui erano i ragazzi come di qualsiasi altra parte del mondo. Hanno lanciato urli di gioia, hanno buttato i cappelli per aria, si sono accalcati per salire sulle giostre. Quali sono le vostre attrazioni? La Zamperla costruisce tutti i tipi di giostre. Abbiamo più di 50 tipi diversi di attrazioni, dalle giostre per bambini ai progetti speciali come quelli che facciamo per la Walt Disney o Universal Studio. E avete anche lavorato a New York con Donald Trump? È stata la nostra prima esperienza. Donald Trump gestisce il Welcome Ring a Central Park. Durante il periodo estivo non sapeva che cosa fare, aveva provato varie iniziative. A un certo punto contatta noi e noi abbiamo risolto il problema creando un bellissimo parco di divertimenti per bambini. Dunque, una delle vostre attrazioni è questo aeroplanino che gira, che in qualche modo richiama forse un po' quello che era l'originaria navicella spaziale che andava sulla Luna, del Luna Park, è vero? Le giostre ad aerei è sempre stata una tipica attrazione dei parchi di divertimenti. Altro che adesso gli abbiamo dato un po' di pepe in più facendo viaggiare i passeggeri anche fino a 4G di accelerazione. Questi jet... 4G vuol dire che uno vomita o no? No, perché La nostra abilità è far sì che il passeggero continui a cambiare il tipo di sensazioni che ha mentre viaggia su queste attrazioni, quindi rallenta, si ferma, sei upside down, quindi non sai che cosa ti succede l'istante successivo, quindi sei così preso a prevedere la prossima sensazione che non hai tempo da star male. Voi gestite anche questa operazione? Noi siamo incaricati anche nella gestione, il parco è gestito da noi. E quanti altri parchi gestite nel mondo? Attualmente soltanto questo a Central Park e quello a Coney Island. E quanti ne avete costruiti nel mondo? Difficile da calcolare. Tenga conto che realizziamo dai 3 ai 4 parchi completi all'anno. E la vostra storia è una storia familiare, perché voi nascete con una tradizione del divertimento. Se non sbaglio, suo nonno, suo bisnonno era nel circo. La tradizione dice che mio bisnonno, che era un bravo acrobata, venne a Ferrara, dove lui abitava, un amazzone che faceva salti mortali sopra il cavallo, se ne innamorò e assieme crearono un circo. Nacque mio nonno invece decise di seguire un'altra strada, andò a Parigi, acquistò uno dei primi proiettori brevettati dai fratelli Lumière e costruiti dalla Pathé, e mise su un cinematografo ambulante. Da lì poi la tradizione passò a diventare costruttori di giostre e ora siamo qui a New York. E quindi è una tipica azienda italiana, perché voi siete di Vicenza e quindi siete uno dei tipici distretti. Corretto, sì. Ecco, quanta gente occupate a New York? A New York occupiamo 550 persone, molti sono stagionali, 150 fissi e 300 stagionali. Giro d'affari? Una ventina di milioni. Senta, Bloomberg è contento? Basta sentire quello che dice. Il business in Coney Island, che era una delle aree più depresse di New York, è su del 30%. L'anno scorso la stagione è stata record per l'affluenza, più di 10 milioni di visitatori sono venuti a Coney Island. Ecco, ma scusi, allora Zampella, una domanda, ma se lei fa felice il sindaco di New York Bloomberg, ma perché non fa felice qualcuno dei nostri sindaci, qualcuno dei nostri governanti, magari il primo ministro con un progetto per la crescita? Perché 550 posti di lavoro qui e in Italia continuiamo a essere in difficoltà? Non può fare qualche giostra da noi? Io sarei pronto, mi piacerebbe anche poterlo fare, ma dov'è il coraggio che hanno queste amministrazioni di impegnarsi in un progetto di questo genere? Io ho paura che in Italia manchi il coraggio di cambiare e di voler fare le cose. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Jermaine Jackson, fratello maggiore di Janet e Michael Jackson, è partito con una missione: ricreare i Jackson 5. È arrivato in Australia, dove spera di trovare 5 ragazzi di talento che possano replicare il successo del gruppo che lanciò Michael Jackson. Dei Jackson 5, ABC. Oh, ABC. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going! America 24.